Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati Personal Best, il corso di corsa alla radio, con me l'instancabile ultramaratoneta Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Con te e con i nostri ospiti toccheremo in queste puntate estive le varie tematiche legate alla corsa, dalla maratona all'alimentazione e dalla resilienza alla scelta delle scarpe. Oggi iniziamo a mettere le basi per segnare sul calendario e magari le nostre prime gare. Lo facciamo con i consigli del coach Fabio Vedana. Benvenuto. Ciao a tutti. Allora Fabio, il nostro ascoltatore di oggi è una persona che, diciamo, già corre. Lo fa alcune volte a settimana, 4, 5 o 10 chilometri. Qual è il primo consiglio che possiamo dare a chi vuole cambiare passo e lanciarsi nel mondo del running amatoriale? Il primo consiglio che posso dare, ed è il più importante, bisogna imparare a correre correttamente. La corsa sembra un gesto così naturale, e in fondo lo è una delle prime abilità ed uno degli schemi motori che apprendiamo, però va comunque strutturata con una corretta tecnica, perché la corretta tecnica ci permette di diminuire la possibilità soprattutto di infortunarci, che è l'aspetto che ci limita la possibilità di correre, che è il nostro piacere, no? E quindi imparare a correre con dei principi semplici che ci portano quindi a essere efficaci, a non farci male e ad essere economici nel gesto. Questa è la prima cosa da fare. Tutti noi dovremmo saperlo fare, perché comunque se veniamo dalla formazione scolastica, se abbiamo avuto un buon insegnante di educazione fisica, io sono un insegnante di educazione fisica, impariamo a correre a scuola, no? Però chi non ha avuto questa fortuna, è bene che comunque si faccia vedere da qualcun altro, magari da un compagno di corsa o da un allenatore se è più fortunato, oppure guardi anche dei buoni tutorial che ci sono in rete, che comunque ci fanno vedere un po' dal punto di vista teorico come si corre. E poi l'altra cosa importante è trovare qualcuno che ci filmi e vedersi. Ah, ok. Perché è determinante quello che noi vediamo piuttosto che quello che noi percepiamo, perché magari noi abbiamo una percezione di essere dritti mentre corriamo, invece siamo completamente gobbi, per esempio. Okay. Ti faccio un esempio. Sì, sì, sì, sì, sì. Oppure abbiamo la percezione che noi impattiamo il terreno di pianta piena, invece andiamo completamente di tallone. Quindi questi aspetti vanno aiutati attraverso una persona esperta o anche un semplice amico che ci faccia vedere, che ci riprenda. Poi con gli smartwatch moderni è semplicissimo riprenderti mentre lo fai. Quindi questo è il primo punto importantissimo. Quindi può essere utile correre con una persona magari un po' più esperta di noi, non solo per la motivazione, ma anche insomma per correggere i nostri errori che possiamo fare. Sì, soprattutto all'inizio. Perché all'inizio noi, se abbiamo iniziato a correre tardi, e comunque è sempre più grande la popolazione che inizia a correre in età matura, i nostri ricordi della scuola di corsa sono di quando abbiamo fatto scuola, e quindi dobbiamo rinnovarli, e quindi dobbiamo fare un ripasso. E lo facciamo con qualcuno che ci guardi e ci faccia vedere: guarda, mi sembra che non stai correndo tanto bene, o guarda che mi sembra che le braccia... Perché un altro aspetto importante è l'uso delle braccia, no? Che è determinante per influenzare la frequenza del passo. Perché ricordiamo che la velocità nella corsa è determinata da due aspetti: quanto spingo, cioè l'impulso a terra, e dal numero di passi che faccio, da nessun'altra azione. E quindi questi due aspetti vanno ben analizzati, ci bisogna lavorarci e bisogna quindi avere un'evoluzione nell'arco della nostra scuola. Scuola di corsa, diciamo. E poi quante volte bisogna iniziare? Per iniziare quante volte bisogna andare a settimana, Fabio? Ma guarda, all'inizio, quando tu consiglio sempre di correre a giorni alterni, e anche per chi inizia e vuole cambiare la tecnica, fare dei tratti di corsa e dei tratti di cammino, perché è meglio concentrarsi nella corsa con il massimo delle proprie capacità di attenzione, in modo tale da indurre l'adattamento. E la parte di cammino non è disonorevole, perché sì. Spesso invece mi dicono: ma come cammino, quindi sono... non corro. Stiamo affinando la tecnica invece. Sì, ecco, a scuola, come in tutte le fasi di apprendimento, è determinante la fase di recupero, perché la fase di ripristino e recupero è quello che ci permette di supercompensare e quindi di consolidare le conoscenze che abbiamo fatto. E poi bisogna anche capire un po' qual è il nostro obiettivo, immagino, per approcciarsi alla corsa. Nel senso, magari pensiamo di fare la nostra prima 10 km perché vanno dei nostri amici, vogliamo partecipare anche noi alla prima mezza maratona. Ci possono essere due obiettivi: quello magari di finire la corsa o di avere un obiettivo invece in termini di tempo. Sì, sono due popolazioni differenti, no? Quella che ha il sogno di tagliare la finish line, sì, che è il momento più bello, il momento più emozionante, il momento che ti riempie di tali energie che ti permette poi le settimane successive di ricontinuare a correre magari alzandoti alle 5 di mattina. E invece il secondo gruppo di persone sono quelle che hanno già fatto una finish line, ne hanno fatte magari numerose, ma vogliono vedere dove possono arrivare, e quindi lì c'è il tema di superare i propri limiti. Quindi sono due approcci ben differenti che vanno naturalmente affrontati con allenamenti, sedute tecniche e anche sedute di coaching su cosa è il mio obiettivo, e lì bisogna che ognuno sappia che cosa lo rende soddisfatto, e quindi se la finish line o se testare i propri limiti. Una cosa importante è quella di, in entrambi i casi, comunque fare una corretta preparazione per arrivare al traguardo in condizioni fisiche che ci permettano di far diventare questa cosa, la corsa, una nostra passione futura. Sì, perché ci permette appunto di arrivare con delle sensazioni positive, no? E quindi se il mio obiettivo è arrivare, avrò una progressione soprattutto nel numero di minuti e di chilometri che riesco a sostenere correndo, quindi questo è un po' l'obiettivo del mio percorso. Invece in coloro che vogliono testare i propri limiti ci sono proprio allenamenti che ci permettono di sviluppare le qualità metaboliche e le qualità muscolari che ci invece aiutano ad arrivare al nostro meglio durante, quindi cronometrico, alla finish line. Quindi ci sarà proprio l'introduzione di allenamenti a intensità variate e non solamente con un'intensità unica, e allenamenti anche sull'aspetto muscolare, quindi sulla capacità che ha la nostra muscolatura di sostenerci con quell'intensità di tensione muscolare per tutto il percorso della gara. Ok, quindi è utile anche fare degli allenamenti che variano nella settimana. Pensiamo a tre allenamenti a settimana, cercare di differenziare questi tre allenamenti per riuscire a stimolare. Nella seconda fase, nel secondo gruppo di persone, sicuramente, cioè avere tre tipologie di allenamento che vanno a toccare quindi l'alta intensità, la parte muscolare e la parte di resistenza estensiva. Okay. Fabio, perché molte volte l'errore può essere quella di dire che io corro ogni giorno 10-12 chilometri sempre allo stesso ritmo, sempre facendo lo stesso percorso, può essere una cosa positiva. Quella è la situazione migliore per avere poca efficacia nell'allenamento. Okay. L'allenamento deve produrre e deve indurre adattamento, quindi se do sempre lo stesso stimolo l'adattamento sarà via via sempre minore, quindi devo introdurre sempre stimoli e adattamenti nuovi per poter indurre a nuove crescite da parte del nostro organismo. Grazie a Fabio Vedana. A presto. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.